para ti, chaval. De Gira. Il 15 è per lui, il resto del vino lo porteremo. Cosa? Tu? C'è qualcosa che non va? È lo più bello, dice. C'è qualcosa che non va, no? Cosa? La percentuale. La vita alimentare, sarebbe la carne, il pescato, la benzina. È una cosa molto importante, è aumentare. Che cosa? L'artiglieria. E allora? E allora non ci basta. E va bene, il 20%. Dov'è il tuo amico Berendel?